mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar. La foca barbuta sempre piaciuta, che è solitaria, le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar. I pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale. Io, la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu. Prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, un tutù di alghe nel blu, chiamami Nunu. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Ondeggia il pavimento nel mare, si stringono i cuori, li assalgono i mali della nostalgia. E si avvicinano narvali e gamberi e schiudono perle le ostriche. Non ho perso la voce per un paio di gambe, come la sirenetta in pegno d'amor. Ma io la perdo fumando e bevendo, nell'orgia dei sensi mi butto cantando e mi ubriaco e stordisco ballando, nell'ebbrezza felice abbracciando. Sulla terra tutto si consuma, l'amore all'alba si trasforma in schiuma, ma nell'abisso è tutto uno spasso, puoi sempre incontrare un pesce pagliaccio. Quando sei triste basta una sirena, sbarazzina civettuola piena di squame dalla coda alla gola. Fatevi attorno focene volanti, cavallucci di mare, di terre bagnanti. Ascoltate come sturo l'abisso, ora lo scandalo lo darò io. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Printil slash lax max mac blu blu, chiamami Nunu. Sei finita in taverna, in esilio da cracker e krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk. E mi ubriacano a furia di spritz, e mi ubriacano se faccio le bits. Bell'ufficiale, buttiamoci a mare, voglio tornare squamata a brillare, ma che non lo sappia il capitano testa di morto. Qua tutte e due finirà il collo torto, finiremo con lui tra gli scogli a schiamare. Qua, qua, qua, affondate con me, non è proprio un verso da sirena, che canta in sirenese. Lash, lash, max, max, blu, blu. Sono una sirena,